nulla. E la radio è bassina comunque. Eia, è più alta, è un po' più alta di quella là. L'altra era, cosa stavi usando? Che microfono stavi usando? Mi pare più alta, vista. E quando ti arrivo, e come sto uscendo, guarda un po' adesso, dimmi se ci sono picchi positivi, e come mai questi picchi negativi. Aspetta, devo avere stazionarie, eppure non me ne segna. Buongiorno. Ciao Eugenio, comunque l'antenna è ad Alghero, c'è la via di casa mia, lo stesso numero, però ad Alghero, ma dimmi tu che intelligenza, per quello non riuscivo a trovarmi. Dimmelo se va bene. Ma carità, ciao Eugenio, buongiorno, ma chi ce l'hai con me? No, tu lo stavo dicendo, è che non arriva un pacco oggi, ma c'è l'SDA, non c'è la GLS. Ma dimmi tu, comunque è carina questa macchinetta, dai. Funziona praticamente come caricabatterie del telefono, tu. È molto carina, VGR. Sì. Mi sa sacco barato, poi quanto dura che se ne affuggi. Ah, questa qua è per me, Anto, per i capelli, la barba. Quella degli animali l'ho ordinata e mi arriva qua, costa 50. Quella di 50 l'ho pagata. Quella motorino però, quella che c'ha il movimento noida, quella che vibra, quella di 13. Poi c'è una delle buone, dai. La scala regolare, da 1 a 10. Ti mando la foto, aspetta. Cambio! Come mai io sento quell'altro, Luca? Ehi, aspetta, voglio vedere se... Siccome l'ho ascoltato a Eugenio, voglio vedere se mi sente lui. Eugenio! Ehi, ma chi sei? Natalino, no? Natalino sono, come mi stai ascoltando? Adesso già ti tiro fuori. Ti sento, ma prima ti sentivo. Sì, mi bastava quello là, perché bassino, ma già ti ascolto lo stesso. Però la guippa è mia, chi fa giù l'antenna bassa. Ecco, vabbè, il segnale è quello che ho, però la radio già ti ascolto bene, Natalino. Cappa, grazie, là. Natalino. Ehi, a chi è? Ciao, Franco. Ciao anche a Eugenio e a tutti quelli che sono a ruota. Dimmi una cosa, come ti sto arrivando lì adesso di segnale radio? Santiago 8 mi stai arrivando. Io non so come arrivo a te. Ehi capo, arrivi 7 e radio 5 adesso arrivi, arrivi più bene, molto molto più bene di prima. Ok, vedi a vedere questo passaggio, a vedere se aumenta questa furia. Guarda. Ok. Com'è adesso Natali? Vedi a vedere un po'. 9,5 adesso, sì. 9,5, allora sta andando, dai. È un 747. Sì che va. Va benissimo, Fra. E vabbè, a te te ero di fronte oggi, ti ho vicino. Comunque funziona bene, anche la radio non te la distorce. Ehi, cappa, meglio così. Va bene. No, è nuovo, mai usato. È nuovo. Però si sente che sta pompando, perché la radio, ascoltandoci bene, è leggermente compressa. Sì, può essere anche leggermente compressa, però posso fare così e posso eliminare la compressione. Esatto. Franco, guarda un po' per vedere se è aumentato qualcosa il segnale mio. Prova a vedere, Natali. Guarda un po', 1, 2, 3, 4. Tu sei 7, radio 5. K. Da me, e non arrivavi mai così, arrivavi intorno ai 4-5. E quindi un incremento c'è stato, da. Natali, risolto hai? Cosa è lì? No, Natalino sta dicendo, si è risolto col vicino. Ehi, già ho risolto, là. Anche il microfono sono riuscito a piazzare. Sto usando un MB+4, dai. Meno male, là. Si sente che sta spingendo giù il microfono, là. Vabbè, dai, sono contento, così riusciamo a durare tranquilli. Eia, va bene. Va bene, Eugì. Sono contento, almeno ti ascolto. Adesso la radio va benissimo, cioè ti ascolto proprio bello alla grande. Prima ti ascoltavo basso. E cosa vuoi? Vattene, non viene a pagare su buco. E poi c'ho l'antenna bassa, io ho l'antenna che vorrebbe alzata almeno un paio di metri. E quell'albero mi ha detto che non si, che è un problema a farlo, così è. È un problema, mi già te lo spiega Claudio, quando senti a Claudio fattelo dire come ce l'ho l'antenna. Ah, vabbè. E l'importante è sentirsi a Calia, sono già migliorato tantissimo, va benissimo. Vabbè, va, vi ringrazio che passo in quel Rix che devo cucinare, là. Ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti. Ciao Natalia, ciao, ci sentiamo, Ciao Natali, alle prossime, buona carica quando la fai. Ciao Natale, ciao. Ui. Ciao Franco, Nesus. E beh, Natale, come ando? Nuda. Che ne sto combinando? Niente. Capo. Cosa ti arrivo a te da lì, che sei in posizione diversa di Natalino? Natalino, ti arrivo a te Natalino, come sei in posizione di Natalino, anche io sono Natalino, Ah, Natalino sì. Natalino lo so, secondo te, Ho detto che hai una posizione diversa di Natalino, non ti ho detto che sei Natalino. Ah, 9, segnale 9. 9, va bene, va bene. E così? Fai? Fai Franco, fa passaggio. Ehi, capo, vedi a vedere così com'è. Se non vuole, sono i fatti della radio. 3-5. Da 3-5 a 9 vado. Cavolo. Va. Capa, già. Tu sei E da quanto è quello, Fra? Ma dovrebbe essere 100 watt, perché 747. Mi ho capito, ma c'era 100, c'era 150. Non lo so, questo siccome me l'hanno regalato stamattina, ed è nuovo in scatola. E niente, non so neanche, perché in scatola non me ne ha dato, dire la verità. Però è nuovo, mai usato. Fra, sta arrivando, quanto arrivi con la radio grande? 9 più 5. Quando è staccato di 7, vai da 7 a 9 più 5. 80-90 watt, ce l'ho anche io. Claudio! Aspetta, Natalino, cosa hai detto, Fra? No, io non ho parlato io, ha parlato Eugenio. Aspetta, ti ho detto che vai da 7 a 9 più 5. Il tuo segnale è di quando usi la radio grande. Cappa, va bene allora. Non va bene, no. Di più e di lusso. Usare questo perché la radio è molto bella, non ti disturba. Il segnale è uguale a quello dell'altra radio. Ottimo, ottimo. Io ce l'ho da un'ottantina di watt, 80-85 watt. Fanno molto bene quegli amplificatori. Dimmi Natalino. No, a vedere come ti arrivavo di radio, perché diciamo così sono riuscito stamattina a mettere il microfono. Ma devi sollevarla la radio, perché non è che sia amplificata. E Avano è amplificata. Ma ne a baciarla che la troppo voci. A manetta, da. Io continuo a dire che il coronavirus sta facendo male a qualcuno. Chi te l'ha detto forse c'è il volume basso. Io ti sento un normale microfono con una leggera amplificazione adesso, ma prima eri per me un microfono normale, Natalie. Lo sai che io quando do i controlli li do giusti, anche se la gente si offende. Quindi adesso va bene al massimo, se poi ti hanno detto di abbassarlo vuol dire che qualcuno deve sollevare il volume della radio. Adesso comunque va bene, così è. Sì, se non fischi sì. Lascialo così, Natalia, che va bene, che non ti ho mai sentito così bene. Poco fa che stavi andando bene. No, ma l'hai detto da abbasciarlo, compreso Ebra, l'hai detto da abbasciarlo. Boh, come fai a dire di abbassarlo se la radio è al normale? Boh, è al massimo. Prima lo metti al massimo. Una volta che è al massimo, poi se è da abbassare si abbassano. Sì. Eia, così non fischia più. No, non fischia più così, va bene. Però ti devo dire una cosa. Non so che microfono stai usando. L'altro che stavi usando ieri è più forte di questo. Il microfono normale stavo usando. Non lo so, se sei riuscito a fare le connessioni a quello, tieni quello, ma non è che amplifichi così tanto, Quello di Tino è 4 volte più alta la radio. Controlla se è tutto giusto, non lo so. Oh, ciao a tutti, dai, che mi stanno chiamando a pranzo. Ci sentiamo, ciao a tutti quanti, dai, così non mi sbaglio. Ciao Fra, ciao, ci sentiamo stasera. Capito, è Nathalie? Già ho capito, va. Questo che microfono è? Fammi capire, parliamo monosillabe. Questo qual è? Quello che ha riparato Fabrizio o quello che hai comprato da Antonello? Domanda. Quello che ha riparato Fabrizio è il vecchio. Il vecchio? Boh, sì, si sente che c'è una leggera preamplificazione, però pensavo molto di più. Molto di più. I toni a quanto ce l'hai? Toni non ne ha questo, che è l'MB più 4. Ah, più 4. Ed è quello che avevi modificato? E allora? E mi chiedi come ce l'hai di quella radio? Al massimo. Perché me l'ha fatto mettere al massimo dal menu Franco, coso Marcolino. Natalia, chiedi, controlli a qualche domanda, ma non lo abbassare, lascialo così perché la radio è bella, però potrebbe fare qualcosa in più, non lo so. Aspetta, faccio una bassa veloce, è chiaro. Va bene. D'accordo, un attimino Natalia, controlla, guarda se nel menu è tutto a posto Natalia, cosa vuoi ti dica? E infatti, guarda, adesso non sta fischiando ed è a 7 mi sembra. No, mi, alla fruscia. Perché è alto, vedi? Zitta. Guarda a vedere. Aspetta un attimo Natalia, stava fischiando comunque, aspetta un attimo sono al telefono. Oh, chi mi chiama? E io ritornerò, osservo a primavera. Vabbè, finisce di usare. Ciao Genio, buongiorno. Ero profeta, buongiorno. E un signolo, caspita. E allora? Hai visto, eh? C'è anche un amico cantante. Cosa dite? Buongiorno, e allora? Bene, un po' di caldo, Eugen. Che fa bene a tutti, dai. Si sta bene, oggi è una bellissima giornata. Cazzo, stavo lavorando qua. Sono meglio di sudore, 33 gradi. Ho già messo il picco massimo, 33 gradi. Bene, bene. Bene, bene, sì, io ho la finestra completamente spalancata e fa girare un po' l'aria. E... bel sole, bel sole. Bene, bene, una bellissima giornata. Siamo agli Hawaii, non ce ne stiamo a fare. Peccato che siamo chiusi in casa, però siamo agli Hawaii. Andavè, tu hai già finito il lavoro? Sì, sì, oggi mi sono fatto due rampi. Vabbè, adesso devo fare una stasera. Comunque, dai, tutto nella norma, dai. Tutto a posto, tutto nella norma. Il mercoledì è un po' critica per noi. Abbiamo più navi e un casino. Vabbè, già sono sicuro che già te la sbucci, dai. A voglia. E quindi no problem. Già lo sai, no problem. Oia. Che ne so, è già quasi roba... si avvicina l'ora della carica, dai. Cosa? C'era la testa di Claudio Sparviero, il dice. Oh, io ho acceso adesso. C'era lui, Luca. Da quello. Natalino che si è allontanato perché doveva andare a cucinare. Franco. Oh Franco. No, io ho acceso stamattina presto. Poi ho spento, mi sono attaccato al PC. E ho acceso adesso. E io stamattina presto ho fatto chiamata ma non c'era nessuno. Vabbè, forse era troppo presto. Eravamo le 5 meno 20. Vedi tu. Forse era un po' troppo presto. Ieri vabbè, non abbiamo fatto tardi, ero con Marcolino, siamo rimasti insieme alle 10:30 e poi abbiamo già raddoppiato. Con chi? Dico, eravamo io e Marco Condor ci stavamo facendo una chiacchierata. Poi mi ricordo che c'era entrato per un attimo anche Natalino, Luca, e poi verso le 10:30 abbiamo chiuso, dai. Ah, con Marco, ho capito. Com'è la situazione a Papatango? Tranquilla. Qua il movimento si è alzato parecchio, là vedo c'è un sacco di traffico, gente in movimento, si vede la differenza rispetto a qualche settimana fa. Ah, e allora voi cominciate a fare il seminario di carriera, lascia stare il vecchio. Veniamo a vedere, come si dice. Ma stavo sentendo che hanno fatto svitare la cavalcata, quindi se ne parla a settembre, credo. E anche noi una festa grande, a ottobre. Sono curioso di sapere se questi stanno scendendo nei candelieri con la mascherina. Tu li guardi dall'alto, no, i candelieri? Tu li vedi entrare, giusto? Vabbè, io li vedo quando escono alla porta di Sant'Antonio. E li vedi anche rientrare, però. Beh, certo, sì. C'è un pezzo, insomma, c'è una buona visuale da qua, dai. Quando rompono il cappelletto entrando in fosse a Sant'Antonio. No, vabbè, lì è Santa Maria. Adesso non mi ricordo qual è il gremio che rompe la crocetta entrando, adesso mi sfugge. Ah, giusto, quella Santa Maria. Ma non hai visto di spostare i castrati dei candelieri? No, negativo, no. Primo che non c'è il fisico. Due, mi piace vederli da fuori, dai. Anche se ormai ne ho, come si dice, li ho visti parecchie volte. Più che altro ci ho lavorato, dai, per conto della televisione, quindi adesso magari mi piace vedere più il contorno. Perché da Bracco? Chi è che è entrato? Bracco. Avanti Franco, tu sei? No, un controllino, soltanto sto provando un loro metro, a momenti funziona, come mi state copiando? Chi è? Ah, ho sbagliato, adesso ho capito, Bracco, buongiorno Bracco. La radio è bassa però rispetto alle altre volte. Comunque buongiorno, ben entrato. Grazie, ascolta, no, lo so che è bassa perché sto prendendo. Adesso sto parlando attaccata alla bocca, non sto usando come il microfono, forzatamente questo. Ma mi state copiando bene comunque. Io sì, dai, Santiago Novi, arrivi qua da me. Parecchio allora, dove sei tu? Sassari, zona bassa di Sassari, verso la stazione. Aspetta già. Io non lo sento già. Eia. Sì, c'è qua è entrato Bracco. Ciao Gianni. Buongiorno, ben entrato. Sì, qua arrivi 9, Bracco. Eugenio, credo che non ti ascolti già, Porto Torres. Addirittura non Marco. Eugenio, dimmi se mi copi. Eugenio. Non ti sente Bracco. Buonasera, buongiorno. Beh, sei a Porto Torres, è lui. Dicono che sta provando un rollmetro, l'importante è che funziona, mi sta funzionando. Eventualmente continuate, già, eventualmente rientro più tardi. Buon Rex allora, dai. Buongiorno a tutti gli amici che ci sono in ruota. Avanti, già. Buongiorno, ciao Bracco, alle prossime. Sì, c'è il camionaro giù a Porto Torres, avanti Eugenio. Ciao, buongiorno, e allora, come va? Ciao, adesso io ho finito di fare tutto, mi stavo curando tutte le gambe degli uccelli, insomma, mi sono stressato un po', dai. Ma adesso vi riposo, mi rilasso 5 minuti prima di pranzare, poi sto facendo la parata per se c'è qualcuno, poco fa c'era Luca, Natalino, e non li ho più sentiti. Io sono qua che stavo cucinando. Già, com'è la radio? Già è buona Natalia. Cappala. No, guardalo al massimo. No, fischia. Se lo metto al massimo fischia. Ma Maria si sente bene, è bella presente, dai. Va bene. Cappella, ma come mai fischia? Forse c'è il parlascolta con l'apparecchio, confermi. Però è disinserito. e disinserito. Potrebbe essere il mic gain dell'apparecchio, provo a abbassare il mic gain e alzare il microfono. E tocca entrare in un menu. Ah, vedi, è quello che dico io sempre. La roba semplice è sempre migliore. Va bene, dai, già comunque va bene così, Natalia, già si sente bene la radio. Eugenio, chi c'è di altri? Chi c'è? Cosa già? Ehi, ho detto, Eugenio, chi c'è di altri? Io. Ciao Eugenio, ben sentito anche a te, buongiorno. E allora, che si dice? Sole c'è a Porto Torres? Sì, no, sta piovendo già. Ma dai. Ehi, è nuvoloso, sta piovendo. Qua c'è il sole. Ah, oh, ve lo ci credo. Dove? A Sassi. Allora. Ma quasi sei. Gianni, confermo. Non ho capito, scusa. Eugenio dice che a Porto Torres sta piovendo, non crede che a Sassi c'è il sole. Sì, dalla finestra vedo che c'è un gruppo di nuvoloni grossi sopra Porto Torres. Certo. E oggi la nuvola di quanto si sopra casa tua, no, io difendeva. Sta piovendo. Sta facendo caldo, ma sta piovendo. E adesso sei no. Per il momento no. Eugenio mi ha detto che le nuvole sono tutte verso Porto Torres. E si vede che è un po' chiaro verso Sassari. È un po' strano. Magari stasera arriverà l'aria. Ma già arriva. Non pinnacciare. Vabbè, la fava lo infusa. Se no si bagna, non cresce. Ragazzi, io entro, vi saluto. Vado a prepararmi la carica, dai, buona carica anche a voi, casomai ci aggiorniamo a più tardi, ok, allora a Vapai, là che andiamo a Vapai, là. Comunque, buon pranzo a tutti e a risentirci, ciao. Ciao Luigi, ciao Gianni, ben sentito, dai, ci sentiamo, avanti Natalino, non entra, avanti Luigi. Ciao Gianni, ci sentiamo. Niente, ci sentiamo, ciao. Chi già mi stai chiamando? Che già di voi? Andiamo, là. Riprendi oggi, chi c'era oltre voi? No, eravamo noi, non c'è nessuno. Ah, non si è stata poca gente, oggi. Voglia. E io arruda mollo. E io mi guardo un po' il telegiornale, sempre solite cagate, dico, mamma mia. Uno dice una cosa, uno dice l'altra, e uno tira l'acqua sul mulino. Ma perché già? Sì, perché a quanto pare questo coronavirus è stato fatto scappare al laboratorio per far guadagnare le ditte farmaceutiche, in modo che tu ti fai il vaccino e loro guadagnano. E chissà se sotto. Io anche se c'è il vaccino non me ne faccio, se non è che sia obbligatorio. Però se non è obbligatorio non me ne faccio. Ci sono sostanze chimiche che fanno ben male. Già lo so. Va bene, dai, io vado a mangiare. Hanno identificato la vittima di ieri, non si sa niente. No, non ce l'ho fatta a guardarmi il telegiornale. Oggi. Stamattina mi sono stato alle 8:30 e non l'avevano già data. Sull'Unione Sarda c'è scritto che hanno identificato la vittima. Ah, così. Ma è caduto così, Non so come sia successo, tu? No, già. Un malore ha avuto. Era due giorni lì. Ha avuto malore. Capito? Stava facendo il bagno, è caduto. Si è avuto malore, è rimasto lì. I graffi che c'ha sono derivati agli scuri. Si chiama Roberto Fiori, che ha circa 50 anni. Ed è di Sassari. Roberto Fiori. Roberto Fiori. E la foto non c'è ancora. Ma se me la mettono, a me non mi è nuovo questo nome comunque. Sì. Perché lo conosce più? No, non lo conoscevo. Cazzo, sei quello più beatable, cazzo. No, io non mi è nuovo come nome, ma se non vedo la faccia può darsi pure che lo conosco, che lo conoscevo. Come nome di Fiori ne conosco un bel. Soprattutto a Sassari, però se non vedo la faccia non so dire se è quello che conosco io o qualcosa del genere. Vabbè, ci sentiamo, ciao già. ciao Eugenio, ciao a tutti, sto andando a mangiare che poi potremmo uscire. No, io ne conosco più a produttore sui rifiuti, assassi. Vabbè, dai, comunque, poveracci, mi dispiace, l'ha per lui. Ciao Claudio, buona carica quando la fai, avanti. Ciao Claudio, che ti dico? Va bene, anch'io mi devo allontanare, ci sentiamo stasera. Ciao a tutti, ci vediamo, ciao, cosce calde a tutti, ciao. Ciao, ciao Eugenio. Ciao Eugenio, mi metto il cognato di Roberto che è vicino al fuoco, l'hanno recuperato loro con l'elicottero, lui adesso è un montatore elicotterista, hanno recuperato loro ieri, capito che c'era lui, mi ha detto che c'era il medico legale, sembra un malore, nessun'altra supposizione per il momento, poi adesso lo fanno autopsia e si vedrà cosa è successo. Ma vero è che era nudo come diceva? Sì, nudo completamente, mi ha detto Giulio, sì sì, si chiama Giulio il cognato di Roberto. Babbo, ma non è possibile, Roberto dice può essere stato spogliato come sbatteva gli scugli, ma non ci credo io. Bisogna vedere, rifaranno l'autopsia, sicuramente. Non ha sbattuto niente agli scogli, era sdraiato negli scogli, non se ne ha fatto bagno, è venuto malore, i graffi che c'ha sono come si è, come è caduto negli scogli lì, ma non l'hanno trovato in acqua, l'hanno trovato sopra gli scogli, non aveva niente, era praticamente, si è coricato sopra la roba che si è tolto. Ah ecco, ha fatto il nudista. Capito, solo che non aveva documenti, l'hanno identificato oggi. Oia, oia, basta un attimo, vedi, 50 anni. Sì, Giulio ha detto così, una cinquantina d'anni, ti ha detto il comandante dei vici. Oia, vabbè, un baraccio. Tante volte, vedi, andare soli è brutto, perché per queste cose c'è un malessere che ti trova. Infatti sembra che non sia morto ieri, sembra che c'era qualche giorno lì. Abula. Ma lì chi ci va Claudio? Perché più che qualcuno che va a pescare non è che ci vada nessuno. Le coppiette dentro la torretta lì, ma entrano giù oppure vanno dove ci sono i parcheggi di fronte alla chiesa di Valle Lontano. Quale torretta? No, cioè, praticamente dove è morta l'Inacussi, più avanti, scusi quelli bassi, si può scendere tranquillamente lì, capito? Si può scendere tranquillamente, dove c'è il belvedere, si può scendere, è prima della chiesetta, non è dopo la chiesetta, capito, di Valle Lontano. Sì, sì, ho capito. Così ha detto, adesso vediamo. Se quello che conosco io, l'età è giusta, speriamo che non sia lungo, insomma mi dispiace, vabbè. Vado a mangiare già, sentiamo dopo, ciao. Ciao. Io sono più stressato, ho detto, mi accendo la radio, invece era già tardi, stavo pulendo gli uccelli. Carino, dai.